basso di prima. Ah, ho capito, ho capito. Quindi adesso è più forte di prima. Tu sei Santiago 4, col K mi arrivi Santiago 5. Più o meno, beh, però già va bene. Sì, beh, sto usando il Galaxy Saturn Echo col terno più 3 da tavolo. Meglio così, dai. Va bene che va bene. Io sono qua che sto lavorando in stanza, dai, sto facendo alcune modifiche, ok? Sì, già va bene, dai, già va bene. Ok, fra, sono qua, dai, fammi mettere in ordine, c'è un casino nero che ho rimesso l'altra base e ho rimenato la scrivania e ho allungato la base, dai. Se no non mi ci stavano più le radio. Già sono qua comunque, ok? Ia, KK. Sì, dimmi. Prova. No, no, va bene adesso, va bene. Alla grande. No problem. Segnale? No, hai guadagnato qualcosa. Ok, io sono liscio, pochissimi watt. Mi ascolti sempre? Va bene, ottimo per la truppa. Sono qua, fra. Va bene? K. Fazio nem mais com 100 metros, me deu o beijão, o beijão. Adesso invece piano piano vedrai, già va bene. No, non lo sento Torino, sono qua in stanza io che stavo facendo alcuni lavoretti. Poi questo là è 5:30, 6:15 devo uscire. Però non ho sentito nessuno. No, ha detto che entrava, eravamo assieme, che siamo andati dalla dottoressa, abbiamo il dottore uguale, e per la medicazione siamo andati. No, l'ho sentito quando io, avanti io, me la mettono, non mi ricordo adesso. Comunque, appunto, ho chiesto di te, io non ti ho voluto disturbare, ma non ci siamo sentiti adesso. Comunque, l'importante è che sia andato tutto bene, ti ripeto, poi piano piano, ma no, devi avere tempo. Sì, no, non ne ho fretta, tanto piano piano già... Sono già agitato 2 anni, ero 2 anni a Ottago, che dolore, non agito, bah. E infatti, adesso è il tempo di assestarsi un po', di rimettersi tutto a posto, già passa. E a fare la radio, basta il dottore, tra i 10-15 giorni dovrebbe andare già a posto. E allora, ci siamo quasi, dai. Se devi lavare, devi lavare a pizzi, comunque si butti che vai, non ti puoi fare doccia, non deve toccare acqua assolutamente. Io beh, vabbè, Rogna, ti lavi a pizzi, piano piano, e lo stesso mia moglie è così, è stata operata al piede, e appunto, praticamente quando girava, un piede la savura ancora. Mamma mia, non riesce a poggiare ancora. No. Ancora siamo in alto mare, molto in alto mare. Mamma mia, è brutto quando è così. Perché non riesce a uscire, non riesce a fare le cose che faceva prima. Ti ho visto fatti sempre nervosa, sempre, però dove abbi un po' di pazienza, cosa vuoi ti dica? Io non lo so. Non lo posso immaginare, già ne so qualche cosa io, cazzo comunque che dolori. Sempre di continuo, mai ero sempre un gabbo, non ci voglio pensare, va, già è passata. Infatti già è passata, avanti Gianni. Buonasera Claudio, buonasera anche Emanuele, non so se ci sia altra gente perché ha acceso adesso, buonasera a tutti. Ciao già, ben sentito. Emanuele, come va? Va bene, dai, un po' il dolore di 12 punti, però tutto il resto a posto, ho fatto una bella passeggiata stamattina. Ma adesso non straffare, riposati adesso, stai un po' a riposo, non è più migliore. No, abbiamo fatto lì, sarà 100 metri, 200 metri, cioè 200-300 metri, però... anche il dottore cammina, non sale dal letto, seduto, non esagerare a camminare, però cammina. Non devi esagerare appunto, perché sennò poi casino, non ti va ritorno. Vabbè, i dolori comunque sono spariti. I dolori sì, so quel dolore dove sono tutti, sì, cazzo mi ha levato 3 tagli. Quello è normale, Siamo tornati a lei, se lo continuo, anche lui ha fatto la medicazione e siamo tornati adesso. Ha fatto la medicazione e tutto quanto, ho cambiato i seduti, adesso devo riandare lunedì. E dove l'avete fatta l'ospedale? No, l'ho fatto l'essa nostra. Ok. In via Dominzoni. In via Dominzoni, ho capito. E vabbè, è interessante che ci sia la mano di un dottore. No, no, ha controllato tutto quanto, la ferita si sta bene cicatrizzando. Va bene allora, mamma. Adesso lunedì dobbiamo riandare che si cambia attorno alla medicazione. E che apparecchio stai usando adesso, mamma? Il 706, sempre quello. Non so più nulla, già. Tutto dato, cosa mi fai? Cosa ti hai detto? Il 796. Il 706. Ah, già c'è bene. E pensavo anche il 7.000, che tu il 7.000 l'hai dato da Milo. Andava, quindi adesso puoi ascoltare anche le frequenze da Gamma. Furia? Sì, 50 metri. Va bene, dai. Tanto mi fatti di tutti, stai cadendo una che vada bene. Ma ho capito già. Ho detto l'unica è tenerne una che vada bene. Allora, se ne vai, Santo Rai, che se ti fai quattro bande, figurati. Ma come fa le pelle a sempre mamma, no? Questo ce l'ho già, allora, 8 mesi ce l'ho questa radio qua, l'avevo presa da un radioamatore di Furi. Va bene, ho avuto anch'io 70 CM K2G, funziona bene, piccolina, non ingombra, va bene. Lo so, io sto usando il gas super, il gas a turnecco di Danilo. Questa era di Danilo, ma sono comprato io, capito? Quando ha comprato quella lì ha venduto questa a me, se no prima non me la poteva dare. Ma le cose ha cambiato gli erai, gli Smith? Sì, li aveva cambiati lui. Ma c'è lampadine nuove, tutto, nuova, tutta pulita, bella, nuova, verniciato i maniglioni nuovi. La voleva la mela, c'è già una manifestazione nuda, basta, ha giurato la mia, mi ripeto un'altra. Modificata, qua, Sassari. Cos'è già? Quella modificata che c'ha qui, a Sassari, no, no, Furi l'ho spedita, quello di Furi, Me lo dicevi che era stato il fratello della presa io, ti avrei dato quello normale, ti avrei dato quello normale, ti avrei dato quello di Furi. Data a 300 euro, le date a 300 euro già, anche se l'ho pagata a 350 si abbia il lusso, le date a quel prezzo lì. Già, adesso faccio modificare quest'estate, la faccio fare Colt, la devo mandare da Ciccio Cobra, me la manda Massimiliano, quello è un grande professionista, e faccio fare questa a Colt, capito? Tanto è già pronta, mi ha detto, guarda, è facilissima, spreco anche meno tempo e spendi molto meno di fare un baracchino normale, perché quella è già predisposta, capito? Usiamo la stessa scheda, c'è l'interruttore già pronto, è tutto pronto, la potenza regolabile, quindi mi ha detto ti faccio un capolavoro. Claudio, la potenza del garage di vista quanto è dalla casa? No, non ci ho fatto caso già, l'ho dato un'occhiata così ma non ci ho fatto caso. E 15 watt in AM, te la dà la casa, 15 watt. Già, mi danno le dati a 15, le dati a 25, l'ho abbassato io l'ho messo a 10 watt perché mi va bene così, quando aggancio non glieli do tutti anche se li ha 20 il mio lineare, però capita che aggancio un linearetto piccolo, l'ho messo io a 10 watt, se no se la tiri ne da più di 15, la posso anche mettere a 15 normale, ma io sto andando a 10, 15 modulati, capito? Ma questa, adesso quest'estate la mando da Ciccio Cobra, me la faccio fare Colt. Praticamente, vabbè, passati i momenti, tasto ecco, nessuno c'è che entra l'ecco dell'apparato, entra l'ecco del esatto, mi ha detto infatti Francesco, si chiama Ciccio. Ciccio Cobra dice che è molto, ma molto più facile fare questa che fare un baracchino, perché là devi mettere tutto il circuito, questa è già pronta, capito? C'è anche già la potenza regolabile, quindi chiaramente sarà molto di più la potenza, però è molto più facile. Quando la vuoi andare corte, tiri su l'interruttore, ecco, entra il circuito corte. Quando non la usi così, normale, senza nessun problema, e spendo molto, molto meno, capito? 150 euro e c'ho la radio Colt. Già va bene, già va bene. Ma non mi sa come lei ci va bene, ma non ci va bene. Ma si era pensata bene, ha detto, che l'ha pagata 3.500, e mi dà un po' la luce. Ma questo è non lo sapevo già, se lo sapevo già vi ho dato a te. E quindi l'ho data perché no, non aveva nulla. C'avevo 7.000, la Galaxy, e mi è rimasto solo 7.000. Boh, basta avanti. Andava bene quella radio, ci va bene. Come anch'io, Manuel. Anche io, Manuel, ho venduto tutto, non c'ho più niente, ti mando la foto, non c'è più niente. Ho rimesso l'altra base qui già, poco fa ho finito giù a pezzi, tolta quella scrivania, adesso c'è di nuovo la L, tutto riordinato di nuovo, tutto rifatto da capo. Cazzo, boh, basta, ma non tocco più nulla e mi sono rotto. Quindi una parte rimane vuota adesso? No, non faccio più più. Vabbè, ho tolto tutto dentro l'armadio di nuovo, così la botta. Adesso la L è tutta piena, anzi mi manca la 340 che dovrebbe arrivare domani, oggi è martedì, dovrebbe arrivare domani mattina. E quindi ci va anche quello lì, ci sono tre MC60 dall'altra parte, nella base, e quella è più corta, non è che ci sta molta roba, capito? Però adesso è tutta piena di nuovo, tutta la L è piena. Ma la ragione Massimiliano è molto più bella, ho eliminato quella scrivania, mi sta venendo, che ora sono 5:20, metto 5:30, 6:15, te la do a lui, così si sistema bene nel radio sua, che c'ha un tavolino lui, ci mette gli alimentatori sotto, capito, c'ha lo scorrevole per i microfoni, ma i microfoni già ci stanno lì da tavolo, ne la entra, quindi... Va bene così, questa è nata così e va bene così. Mi sento un attimo qua, ok, rientro dopo, dai. Ciao Gianni, ciao Claudio, a dopo, dai. Ehi Manuel, sentiamo dopo. No, no, già, non è smotto più, cazzo, ogni travaglio. È pesante mica quella base, anche se è più corta dell'altra, l'altra è cernierata fortunatamente. Questa no, questa c'ha le piastre sotto in ferro, capito? Quindi mi sono dovuto coricare sotto, mettere i due piedi prima, puntarla sotto per mantenerla, che sennò me ne è gaginata lo gabbo, puntare le viti, stringere prima tutte le viti, allinearla, metterla a livello. Buon lavoraccio. E poi non ti dico cosa ho dovuto fare per spostare di nuovo tutti i cavi, mamma mia, perché adesso gli alimentatori sono nuovamente all'angolo in basso nella base di sotto, non si vedono neanche, quindi tutti i cavi, allungare tutti nuovamente i cavi, perché li ho fatti tutti a misura qua. Sto facendo dalle 9:30, ho pregato che erano le 2:15, ma alle 2 ero di nuovo qua dentro, ho finito poco fa, mi sono seduto adesso, ho aperto la finestra e mi sto fumando una sigaretta, tutto riordinato, ti mando la foto, proprio come era prima, capito? Anzi di più, perché sono un bel più di microfoni, è molto bella, dai, già va bene. E basta, è la scrivania, la do Massi, mi viene dopo a prendersela, e nulla, e va bene così, dai, tanto. Adesso chiaramente sono più baracchini che radio, che non c'è più niente, non ho montato manco quella piccolina, ho eliminato altre due cavi, ho eliminato il commutatore elettronico, l'ho staccato, ho staccato tutti i fili, ho messo l'antenna diretta, lassù intanto c'è un'antenna solo, quindi la lascio diretta e abbiamo eliminato anche un altro po' di fili e un'altra antenna. Ho eliminato. Claudio, per il freddo. Attenzione Claudio. Aia, beh, bricicchè, dimmi Gianfra. Dammi un controllo di radio, come sta andando? Ah, va bene, normale, radio 5 normale. Gianni. Gianni, un galera. No, non si può fare questa. E com'è il segnale? Che qua non vedo con quanto sto scendendo. 5-4-3-2-1-0. 9:20. Anche da me Gianfra, 9:20, qualche tacchettina in più, dai, ma 9:20, 9:22. Ah, ok, sto provando quello là che è arrivato. Lo sto configurando piano piano, perché è un bello lungo. Cerca di farmelo bene, poi mi dici che non capisco niente. Una volta che è tutto configurato ed è a posto, allora me lo dai. guarda, non ci sto capendo niente io, che tutto dire. hanno messo 5 manuali dentro. Non ho capito, ma le faccio tu per questa carta. Va bene, me ne ritorno a lavorare, sono qua in ascolto, ma lo sto mettendo a punto. Va bene, poi quando è a posto già ci sentiamo per telefono. Avanti già. Ehi, ehi, ancora ti è arrivato la carta a Parigi? Te l'ho letto, quello con la 27 digitale. Ah, l'hai preso? Se ne ho ordinato due allora, ma a me è una Gianfranco, sta configurata. No, pensavo che l'avessi preso sul Gianfranco. Cavagliala. Ah, ho qua. Comunque l'ho già provato in digitale. È uno spettacolo, il 27. È una cosa, come si dice, sentire per vedere per credere, no? Vabbè, noi vediamo, gli altri se non ce l'hanno non vedono, noi intanto ci proviamo, poi vediamo se qualcun altro vuole partecipare, tu configura e poi ci sentiamo per telefono e lo provo, lo attacco a casa. Ma cos'è Gianfra, base? No, no, è un ibrido, una tecnologia particolare, molto, molto, molto, e ribadisco, molto sofisticato, ultimissima generazione, è targato 2021, figurati. Che dimensioni? Ma che dimensioni può avere? Adesso mi metti, diciamo, il doppio di un autoradio, però molto più stretto di un autoradio. C'è uno schermo grande, touchscreen, totalmente touchscreen, e più soliti tasti, pochi per la verità, meno male, però molto complesso come impostazione. Tutti i sistemi di comunicazione, quindi AM, FM, banda laterale, digitale 1, telescrivente, messaggistica, GPS, lo metti in rete perché c'è la presa di rete, poi cosa c'è, non me lo ricordo, e insomma un casotto di roba. Già, è bellissimo acceso, come piace a te, da colori, già è bello, già è bello. Quanto è una LAN 48, un po' più grande di una LAN 48, un veicolare già, non è un bus. Dimmi come si chiama. Tanto non te lo prendono, che inutile che tu dica. È lo stesso che c'aveva Claudio, cioè che c'ha Claudio, però questa è la versione modernissima. Claudio c'aveva quello verniciato d'azzurro, la marca iniziava la B, ma è roba da professionale, non proprio di altissimo livello. Perché tanto tu non lo compri. Capito? Vabbè, già lo sa Claudio, dai. Perché dai, dai, dai, dai. Dalle, dille come che non me lo ricordo. Sì, è simile a quello celeste, dai. Già te l'avevo fatto vedere già. Ma molto bello, acceso e favoloso, uno spettacolo. Aiù, così viene anche Gianni, partecipa anche Gianni in digitale. Vabbè, c'è anche il Bluetooth, ecco cosa mi ero indicato, oltre ad andare in rete. Va bene, e ripasso a fare la configurazione, che con tre manuali e siamo dove finisco. Claudio, tu lo devi comprare alle cose. No, già io quando parlo con te devo scrivere. A me piacciono le radio con lo smitter analogico e non lo smitter digitale. Ma stiamo parlando di un altro pianeta. La radio digitale è un'altra cosa. Io parlo delle radio che hanno la strumentazione digitale, non mi piace. La strumentazione però. Mi piace lo smitter, capito? Che non abbia LED, perché poi LED sono. Quella è un'altra cosa, già, lascia perdere. Quella è spettacolare, sia da usare, lì non ti disturba nessuno. Lì se vuoi fare QSO, ve poco da va. O non c'hai la stessa radio o lo stesso sistema, o se no ti attacchi alla Puglia. Ma non è comodo, la stessa che ho fatto non ha molta fiducia in quello che sto facendo, è come a avviso, se no so fare niente. A fare sicuro e cosa, e non ha molta fiducia in quello che posso fare, quindi non è comodo, mi lascia più due solo, così almeno vedo come andare. Siccome ho capito che a te spendere il costo di una macchina per un apparecchio non ti piace, quindi è ovvio che ti ho detto così. Perché quanto costa questo apparecchio? Guarda, uno professionale, per quelli che mettono in nave, che sono lo stesso piccoli, si aggira intorno ai 25.000 euro, quindi ti ho detto tutto. Allora ti tocco la mano. Visto uno dei Schwarz, tipo quello che stavamo parlando con Claudio dentro il furgone, e quello lì arriva anche a 35.000, quindi fatene un'idea. Già, ma non ci va a vedere i giocattoli, io non ti ho detto niente, chiuso a pesci e costi quanto un baracchino, lascia perdere, dai. Non te lo dico quanto l'abbiamo pagato, ma non pensare che costi quanto un baracchino. No, 12.000 euro li abbiamo spesi, però già costano, costa, Gianfranco ti sta facendo un esempio, però questi due che abbiamo comprato non sono due giocattoli, hanno un costo anche abbastanza alto, però non 12.000 euro, quindi per quello Gianfranco te l'ha detto, cioè per l'uso che ne facciamo noi, che è un altro tipo di sistema, anche perché si può usare in diverse maniere, in diverse modalità, e l'uso che ne fai tu non penso che vuoi spendere quei soldi, non è un baracchino già, giusto per cui, non è che sto facendo il conto in tasca, se lo vuoi buro comparà, però. No, quindi per lì non è che non lo posso fare, ma non lo posso fare. Questi qui, cioè questi tipi sono costati così tanto. Beh sì. Ciao, ti abbandonano. Già, abbandona, cioè, ti dico. Noi stiamo facendo un esperimento con Gianfranco, adesso li sta codificando e poi non certo mi metto sul 10 se c'è gente, ci andiamo in un altro canale e sentirete solo rumore, basta, senti solo tipo una telescrivente, boh, non senti altro. Oh Claudio, tu che sei tutto più o meno di tutte le varie. Stamattina ho visto un'antenna che mi è sembrata o era una Game Master oppure era una mantova magari modificata anche, e sotto c'aveva due direttive abbastanza grandicelle anche se un po' ristrette, e siccome tu lo sai dove sono nato io, sì, in quella via. No. Allora, guarda, sicuramente Pirisi lo conosci, il bar, o no, l'ex Pirisi, non so se sei ancora. No, dimmi che zona, Montebasso, dove? Dove c'è l'altra casa, lì che c'è lo studio, credo. Ma via San Francesco? K, di fronte a via, quella è via Buccari, credo. Dove c'è la noce, l'officina noce, te la ricordi? Io, quale Salvatore CTX, Gianfranco? CTX, no? Non me lo ricordo. Deve essere nuovo. Io mi ricordo quella molto, molto più su, che è un po' più giù di Vittorio. No. Giù dove... ci abbiamo ancora, perché ci abbiamo due magazzini di via San Francesco, a casa l'abbiamo venduta, e giù proprio in fondo giù a sinistra, quello è Salvatore, sì, anche CB, non entra mai, ma c'è anche l'antenna per la 27. Ah, ho capito, perché prima non l'avevo notato, quindi non c'era molto, di norma io cammino guardando i tempi. Stamattina ho visto anche un bel ponte radio, ma bello veramente, c'è anche un dipolo attaccato, ed è lì qualcosa all'ex distretto, bello, è proprio bello. Questo Io devo scendere a Porto Torres perché l'altro giorno appunto mio fratello mi ha detto che hanno smontato la sala del nautico. Di telecomunicazioni, e mi ha detto che c'era Zionando, che è l'assistente del professore, insomma, ha detto che c'era della roba che mi poteva interessare, scendere a prenderla, però non ci sono ancora sceso. Abbiamo messo tutte le apparecchiature nuove, non so, poi ti farò sapere. Aiuto, codifica Barò, fai che ci sei vendi, non fa vedà, avanti già. Gianni. Via, oh, Omega. E beh, Brittella. E beh, qua. Qua siamo, mi sono a fare il modello Luisa. Perché? Ah, scaduto. Quanto ce l'avevi già? 18 mesi? No. Si fa ogni anno. Il modello Luisa si fa ogni anno. Sì, ogni anno. Però la carta vale 18 mesi. La carta, scusa. Per chi ha il reddito di cittadinanza devi presentare il modello ISE, ma la carta non scade, vale 18 mesi. Ma cosa c'entra la carta? Se tu sono a fare il modello ISE, quella mentre la carta. Sì, vabbè, modello ISE serve per quello, Giuseppe. Serve per quello lì. Serve per fare il reddito di cittadinanza, quelle cose lì, capito? Ti ho fatto l'esempio. Quell'altro giorno ho comprato uno di qua del palazzo, capito? Per quello te lo sto dicendo. Non serve solo per fare il reddito di cittadinanza, dimmi Mari. Aspetta un attimo. Doppio a Roma, Dromito DC. Non li manda i toni, in FM fa anche il brodo, però non ho capito ancora come faccio a sganciare, perché c'è anche la funzione che registra, c'ha 520 ore di registrazione tutto un mese, mamma mia, che fatica. Ah, oh, eccolo, bisogna togliere, già ce l'abbiamo chi registra, il 27, poi ci fa anche filmini. Quindi se no facciamo la stessa fine già, fra, bisogna toglierlo quello. Il fatto che è automatico, sto tentando di toglierlo, ma devo andare a fondo nelle impostazioni. Comunque erano i canali di sopra e c'erano dei tipi che sembravano affarrandosi, S5, S1, però ho capito di dove diavolo sono, credo che fosse il 22 o il 26, giù di lì. Era altro di e l'altro rispondeva lo stesso. Ho detto, ma che cavolo di propagazione sta arrivando? E c'era come un'altra volta lo stesso, io anche la Riatti stavo ascoltando e erano i due russi che si erano farrendi, non capisco quello che dicono, a voce era no, ma questi erano, sembravano più arabi. Cavolo, che stia arrivando, si è spostata la propagazione. Boh, oggi a voi che ti dica. Oh, c'era Gianni, il doppio room è sparito, si è addormentato e al telefono. Attento, doppio root. Sì, vecchio è. Non è giovane. No, io stavo consegnando la scrivania a Massimiliano, è venuto. Ma non me l'ha tolta a mezzo ai piedi, ho fatto tutto oggi. Ho fatto il cambio e tolta anche la scrivania a mezzo ai piedi. Così qua è di nuovo tutto in ordine. Chissà se lo manda, se lo trasmette quello che registra. No, non è possibile. Si è reazionato. Ma perché? Non ti distrarre, se no fai casino. Torna. Appena premo il pulsante, lui registra. Adesso in impostazione, adesso vado manuale, registrazioni. Qua ci vuole un anno qua per capirci qualcosa, a quando a capire come funziona. Oramai già capisco l'apparato, ci sono degli altri. Ehi dai, già ce la fai, piano piano già ci riesci. Poi è arrivata la Comet. Sì, in effetti sono fatte maledettamente bene, è anche bella pesante rispetto alle Diamo. È una signora antenna. Ma stai scherzando, te l'ho detto, io ce l'avevo la Comet. Prima della Diamond io ce l'avevo la Comet. Poi in macchina avevo la Comet B10M lo stesso, che è simile a quella 770. Solo se che se l'è cromata è nera, capito? Però usciva molto bene. Quindi, vabbè, non c'è solo la Diamond che fa antenne buone, la Comet fa antenne buonissime, non buone. Sì, l'ho già piazzata, l'ho montata, a piazzarla, e chi ci sale sul traliccio? Stamattina hai visto cosa c'era? Sì, un grado, ho dovuto attaccare la pompa per togliere il ghiaccio, la terra e dal vetro della macchina, col motore acceso, tutta birra, non si capisce più una massa veramente. Cazzo, sono sceso adesso a portare giù, ho detto la roba Massimiliano me lo gancarendi, è sceso una bella temperatura, sta scendendo un bella sera, nel pomeriggio stava bene, all'ora di punta, mezzogiorno, ma anche stamattina è una bella giornata, cazzo, come va via il sole c'è un freddo a cagarsi. Sì, io non so cosa stia succedendo, cioè meglio, me lo immagino, ma preferisco non saperlo. Guarda, c'è ancora luce comunque, quindi le giornate stanno allungando, quindi tra qualche mese forse si riuscirà a fare qualche lavoro anche a casa. Oi, sempre che non arrivino trombe d'aria o casini vari. Oggi lo stai facendo mai con le antenne, ho preso un PL nuovo, ecco. Sto un pochettino, l'ho infilato l'antenna, mi è rimasta in mano. Così anche quando stavo collegando questa radio, sono andato a collegarla, i soliti cavetti del cavolo, no? Quelli corti che si usano per fare collegamenti così veloci, RG 58, ho guardato lo schermo, allarme, fondoscala di stazionari. Cavolo, ho detto, non so parte l'antenna, no? Cambiato il cavo, funziona regolarmente. Bisogna sempre stare con gli strumenti attaccati, a quanto pare, con questi tra PL e RG58 che non esiste, e trick e track, e meno male che c'hanno la protezione tutti questi apparati. Te li ricordi tu? Io c'ho il Kenwood, quello tribanda, l'ammiraglio in macchina, no? Cata, quelli partivano già con 1.8 o 1.9 di stazionario. Me lo ricordo, mi pare ce l'avessi anche Tore, quella radio lì, quello della tribù, non mi ricordo come si chiamava, funzionava bene, funzionava molto bene quello lì. Sì, ma c'erano quei moduletti, no, che ricordi, i finali, in realtà era un modulo, non mi ricordo quanto l'avevo pagato all'epoca, se 30-40 mila lire. L'ho sostituito e ha ripreso subito a funzionare, meno male, senza fare serratura né niente. Ma allora si poteva anche lavorare dentro gli apparecchi. Ma è partito così, non partivano, ti dimenticavi di attaccare il cavo d'antenna, partivano a razzo. Io mi ricordo. Vabbè, però c'erano belle radio, dai, c'erano certi veicolari, mi ricordo io. VU che erano uno spettacolo, ma io ne ho anche uno dentro l'armadio ancora, è funzionante, è 701E, mi pare, 701, TM701, se mi ricordo, sì, della Kenwood, che mi aveva venduto proprio proprio il primo VHF veicolare che avevo preso. E funziona ancora, sempre, c'è anche i toni, non solo, capito? È dentro l'armadio, nuovo. L'avevo messo un periodo, giusto così. Adesso ne ho tolto, non ne ho niente, già fra nulla, non c'ho né uno né uno, non c'ho niente. Ho tolto anche il cavo d'antenna con questo nuovo lavoro che ho fatto qua, che ho riagganciato la L, che sennò avevo poco spazio con la radio, con tutti questi vintage. Ho rimesso anche un'altra antenna, infatti il cavo è fuori dalla finestra, e non so dove, non mi interessa. Meno male ti ho dato quel sommergibile, sennò qua non ci stava più niente. E nonostante tutto c'è ancora tanta roba. So io è un macello. E poi sta diventando un lavoro, perché con questo tempo ogni tanto, anzi è un miracolo che non ne abbia buttato qualche antenna, considerando i venti che ci sono sempre più spesso, però evidentemente il lavoro è fatto bene, solo che ti manca il tempo, come fa andare su col ghiaccio, arrampicarti, se ne scendi da lì, se fai un minimo errore sei spacciato. Poi, speriamo che non si fa mangiare la ruggine questo affare. Ehi Gianfra, il tempo è quello suo, ma non è che puoi fare miracoli. Cercate con sé, siamo a gennaio, dai. Un po' di pazienza, penso a febbraio, marzo, inizi un po' a cambiare, se ci vuole le temperature a salire. Ma non è affatto di freddo. Avevamo caldo sino a ottobre. Quindi ottobre, anche novembre hanno fatto bellissime giornate, perciò è che è calato tutto assieme. E poi in pratica questi temporali, quest'acqua che non finisce più, minchia, sono in campagna tutte le gatte. Vabbè, finito a divantenni. Adesso ho messo la guaina termorestringente, aspetto un attimino che si raffreddi. E poi via con la terratura, ma quella me la faccio domani mattina, cappa. Tu buonanotte l'antenna di Nuttiro, domani mattina te la fai, certo che sì. Avanti Gianfra. Sì, buonasera amico. Io devo buttare giù la mia ancora, non ci riesco, non me lo fa fare, perché o c'è troppo vento e non si può lavorare, o piove, o è tutto bagnato. È un disastro. Mi devo tagliare anche l'albero perché se mi vara è di quelli lunghi e pesanti, sfonda anche il tetto, quindi è un altro lavoro, non c'è il tempo di farlo, e poi non si può fare perché qua i venti, se ne va uno e ne viene altro. Adesso forse si è calmato tutto, vediamo un po' se non piove stanotte. C'è un pochettino, ma una brezzolina leggera, si vede ancora fuori. Aspetta un attimo, voglio rispondere a un messaggio Gianfra, aspetta un attimo. Fa, tranquillo. Faccia, non ti ho riconosciuto, chi sei? Ciao Gianfra, Luca Flipper da Lima Delta, non so se mi ascolti bene. No, non ti avevo riconosciuto in effetti, perché c'è una voce strana, quasi nasina direi. Quasi nasina, aspetta che cambio microfono un attimino, questo è l'SM20 con 7-0-6, un attimo. Ciao Gianfra. Prova. Questo è 60. È cambiata un po', però non è sempre... sempre un po' strana, non ti so spiegare com'è. Niente, in che zona sei? Se non ricordo male eri vicino a me, no, dove abitavo prima. A Teloce. Sono qua io, giù a Teloce, di fronte dove abitavi tu Gianfra. Io ero dove c'è Gianni, di fronte a Gianni. Di fronte a Gianni, boh. Il lupo. Di fronte lui, dove... dalle parti di Gianni, più giù, delle antenne qualche anno fa, un sacco di antenne, in quei palazzi prima quello di Gianni. Erano le mie, sopra l'attuale Baldo, poi c'è quel bar, giusto? Sì, sì, che c'è, cosa c'è, una pizzeria anche lì vicino. No, no, Gianfra, no, no, lui sta parlando di via Valdeda. Via Valdeda prima di Gianni abita ancora attualmente, però le antenne mi pare che le abbia tolte. Abitava Archimede, capito? Abitava Archimede, lì, la via Mattore, come si chiama? Giupi. Ah, io pensavo a te dolce. No, allora è ok. Archimede non abitava in via Pascoli, mi sto confondendo io. La via Pascoli, lui ha detto bene, la via Pascoli attaccato al bar, sopra il bar diciamo, la via Pascoli all'angolo lì, con via, che via è quella, e si è trasferito in via Baldetta, capito? Quelle antenne che vedevi, tutte quelle antenne in fila, eccetera, quello era Archimede. Chi era che era? Io, capito? Penso che abiti ancora lì, però sembra che abbia tolto tutto, boh, qualcosa c'è, non lo so. No, Gianfranco abitava proprio quel palazzo rosso, rosa, di fronte alla Conad, dove c'è il trenino, vai. Ho capito, sì. Non so neanche se c'è ancora, dice la stazione di Vito. Lo conosci Vito, Claudio? Vito, no, così non mi dice niente. Mi ricordo che lì c'era tu, in quella zona lì, poi c'era Lupo, e poi, boh, non mi ricordo se c'era qualche un altro radioamatore. Sì, radioamatore, ma chissà se l'ha cavata anche lui, perché era, non stava molto bene. Aveva una direttiva in VHF e non entrava mai, praticamente non l'ho mai sentito, entrava sempre in HF eccetera, e c'aveva un uomo molto in gamba e molto esperto. Ma poi intorno ne avevo altri, di fronte dove c'è proprio, dove trovavo un motivo, c'era un altro che ha messo una mantova 1, però non è mai entrato, quindi c'è rimasta probabilmente la mantova 1 senza magari neanche il cavo. Ah, non lo so, a volte mi chiedo, ma quale antenna è, che non lo so, io sono fuori dal mondo, no? Già mi gioco. Qualcheduno mai lo conosco, se mi dici il nome lo conosco, ma mai dove abitano, manco lo so, capito? Va bene, vuoi riprendere Luca o sei in ascolto? Sto facendo sempre, però. Poi c'era un radioamatore qua, non so se siete pratici lì dove c'è la cosa, la CAI, dai, adesso, dalla parte di dietro, però, per andare verso la Budi, quei palazzi lì, c'era un radioamatore in quella zona, in quei palazzi lì. Di fronte alla CRAI era Gianfranco, c'era, infatti adesso non c'è più perché abita in campagna, di fronte alla CRAI proprio. No, aspetta, io ero di fronte alla pizzeria, poi dietro c'era il mercato, e siccome mi sono spostato ancora prima che ero nelle case delle separate strade, quindi poi sono andato in un altro palazzo lì a 50 metri, che era più alto, che era proprio di fronte a Gianni, dove sei venuto anche tu, per intenderci, Claudio, capito? Però prima abitavo di fronte. Ma dove sta dicendo Luca non lo so. Sì, beh, lì ci venivo spesso io, ma non da te. Da te non sono mai venuto. Io andavo spesso dalla buon'anima di Antonio Secchi, il mio dirigente. Una volta le portavo le relazioni a casa, o passavo a prenderle io a casa sua, passavo a prendere a lui, lo accompagnavo. Stavamo molto assieme con Antonio, poverino. Molto giovanissimo. 2 anni in più di me, del 58 era. Vabbè, pazienza, già voi ti dichiaro. No, lì già lo so. Non tante volte. Andavo lì da Antonio, però da te non ce l'ho mai salito, la verità. No, salito no, Claudio, però sei venuto in garage, insieme alla buona anima di Tore. In garage sì, in garage tuo, in garage di Lupo, in garage da Tore, i garage nel nostro cofo. Già quello già lo so, grazie a te sì, ma a casa tua no, io non sono mai salito. Mai e poi mai, sempre ci vedevamo in garage. KK, avanti Luca. Ah, io sto dicendo, allora tu prendi il semaforo qua per andare verso la Budibuzzi, dai. E il semaforo praticamente che c'è, che uno ti porta verso il Bassana, l'altro ti porta verso la Budibuzzi, l'altro verso la Bretella, ok? Beh, semafori di qua, giri a destra per andare verso la Budibuzzi, alla fine di che palazzo dove c'è la pasticceria La Mimosa, vai ancora più avanti, c'è un circolo, dopo quel circolo c'è un palazzo il più alto di quella zona lì e c'è un radioamatore. Io non so se Gianfranco, io boh, non li conosco. Se adesso non c'è niente, ti dicerò io, per all'ultimo piano c'è un attichetto. Con tante antenne, c'erano quattro all'epoca, c'erano quattro pali per varie frequenze e niente, poi chi c'era vicino non me lo ricordo più oramai, sì vabbè c'era Gianni che era lo stesso radioamatore, ma spendiamo un piuttosto quello, poi chi c'era sopra c'era un altro, era pieno di radioamatori a quell'epoca. Su c'era quello che riparava, c'era l'assistenza dell'Accasio, degli urologi credo. Quello non mi viene. L'antenna si vede anche dal rifornitore della Budibuzzi, no? L'ultimo che trovi al chilometro. Però non mi ricordo come si chiamava. Guarda, io sto dicendo, allora se tu abitavi lì sotto c'è una parrucchiera, c'è ancora, lì, proprio lì. Ehi, c'ero io, quel che di lì abitavo io e abitavo nello stesso palazzo che sta dicendo anche Claudio, dove c'era quel dirigente che non c'è più, purtroppo. E ci abita ancora la moglie, mi è sembrato di vedere perché quando passo lì ogni tanto mi capita di vederla, quindi quelle lì erano le mie, però non c'è più niente, ci dovrebbe essere, forse c'è solo una parabola. Ah, perché lì ci frequentavamo noi all'epoca il motorino, se la ricordi quella graffetta si metteva lì sempre, dove abitava Antonello Cannellone. Dai, che sarebbero quelli che Antonello è morto, che c'hanno i camion lì al rimessaggio dalla Budibuzzi, tutti quei camion. Non ce l'ho presente perché poi io non c'ero mai lì, capito, perché facevo servizio anche di notte, quindi c'era pochissimo tempo libero. Quindi anche in radio infatti c'avevo tante antenne, ma poi alla fine non è che entrassi così spesso tutto lì. Chissà che fine ha fatto Gianni, sarà sempre in quel circolo degli anziani. L'ultima volta cosa Fabrizio mascherato mi aveva detto che era lì sempre più rincoglionito. Non l'ho più visto, l'avevo visto una volta che ero da gommista via Pascoli ed era passato a piedi, che c'ha la pancia ma manco si vede le scarpe, ingrassato tantissimo. Come lui, ma perché è morto Antonello Cannellone? È morto purtroppo di tumore, sembrava che stesse riprendendo, invece poi ha peggiorato tantissimo e si era pucciato. Oh, se mi dispiace, è una bravissima persona, io l'ho conosciuto quando lavoravo all'Enica, che veniva a caricare lì al VCM, capito? Però non ho saputo più niente, poi vabbè siamo ripresi di vista, ma ci picchiamo, era giovane. Era giovane sì, e non fumava neanche, tra l'altro, non era un fumatore neanche, e cosa ci vuoi fare? Compare di mio cognato, te lo ricordi a Giuseppe Rambo? Certo, me lo ricordo benissimo. Mio cognato, marito di mia sorella. Molto amico di Nando Cucisci, tutta quella greffa, ci frequentavamo con Mario Babbo Natale, tutta quella gente lì. Era un bravo autista, aveva imparato a guidare anche bene. Mi ricordo la volta che aveva agganciato il primo articolato, mi ha risato. C'era detto vatto, hanno dovuto molto, c'era detto vatto, mi sembra gli aveva posizionato Mario o Michele, adesso non mi ricordo. Bei tempi. Mario, a proposito di Michele Falvarone, non è più a Sassari. Cosa? Te lo ricordi Michele Falvarone? Certo me lo ricordo, non so che fine abbia fatto. Perché mi era sembrato capire che era sempre in quelle zone di Cagliari, se non sbaglio, da quelle parti. Forse se l'ha trasferito. No, beh, l'avevano trasferito al lavoro, lavorava lì, rientrava il venerdì, però adesso è andato in pensione. Cavolo di già. Si invecchia. Cazzo, penso sia più grande di te, non lo so. Beh sì, indubbiamente sì. Soprattutto anche quei contatti con cosa? Con Filippo? Filippo Cucuà, credo che fosse. Guarda, non lo so, Gianfranco. Non lo so perché ti ho già spiegato, io sono fuori dal mondo, ho abbandonato tutto e basta, non so più niente di nessuno. In parole povere sei diventato vecchio, dai. Io vecchio no, mi sono tolto delle cose che non mi interessavano, basta. Ho tenuto quelle più interessanti, per farti capire, non aggiungere altro. Io sto cercando questo foglio, ma stava leggendomi anche quando sto parlando con te. La vacca, mamma mia. Capitolo 4 di 2. Scusa un attimo, sto parlando con mia figlia. Scusate un secondo, ci sentiamo tra un attimo, che c'è mia figlia, devo fare cose. Kappa, no, va bene. Sì, io stavo leggendo, ero distratto. Ma tu lo senti tutto questo rumore sotto di propagazione? No. Si sentono? Ogni tanto arriva anche qualche voce. E c'è un po' di propagazione. Forse come la diciamo, bella giornata. E se facciamo le proporzioni, se fa bella giornata sul serio, tipo in primavera, o estate, in questi qua arriva un fondo scala. Ah no. Non è entrato nessuno, no? Stavo mandando dei messaggi. Siamo un po' tutti impegnati. Sto leggendo un manuale. Claudio sta rispondendo, credo l'hanno chiamato. Adesso è ancora presto, sono 6:30. Quindi, vabbè, io continuo a leggermi sta cosa, vediamo quando finisco. Ok, fai. Già arrivo subito, ciao anche a Marco, un attimino sto facendo cose con mia figlia. Fai, tanto io mi sto ritirando un po' di attrezzature. Sì, già sono qua, io dai, già riprendo subito. Prova. Gianfranco, dai, che ho cambiato radio, lo stai provando? No, siccome trasmette anche messaggi predefiniti, lo sto provando, ma ancora studiaci un pochino. Studia, devi studiare ancora. Scusa, ma quando premo non senti beep? No. Lo vediamo, è andato a cacciare anche quello. Vabbè, guarda che ci deve essere anche cosa di... vedi un po'. Sì, io sono qua, io non c'è problema, sto facendo alcune cose.